Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Un'istituzione come la nostra Castalia, continua lo scritto di Knecht, è esposta a pericoli interni ed esterni. I pericoli interni, o almeno alcuni di essi, ci sono ben noti, li osserviamo e li combattiamo. Presumibilmente non abbiamo tra noi persone indegne e tiepide, più di quanto sia naturale e tollerabile. Un po' meno scusabili sono la presunzione e la boria degli appartenenti all'ordine, fuorviati da quella nobiltà e dalla situazione privilegiata. Presunzione che, del resto, a ragione o a torto, si suole rinfacciare a qualunque nobiltà. Nella storia di ogni aggruppamento sociale si punta sempre sulla formazione di una nobiltà che ne è il culmine e il coronamento e, a quanto pare, lo scopo vero e proprio, anche se non sempre confessato. L'ideale di ogni tentativo di formare una società è una qualche forma di aristocrazia, di dominio dei migliori. Se ora consideriamo il nostro ordine come nobiltà e cerchiamo di stabilire fino a qual punto il nostro contegno verso il resto del popolo e del mondo giustifichi la nostra posizione particolare, fino a qual punto il morbo caratteristico della nobiltà, la saccenteria, il parassitismo ingrato ci abbiano colpiti e ci governino, tutto ciò ci farà riflettere. Il Castalio Medio considera l'uomo di mondo, il non erudito, magari senza disprezzo, senza invidia, senza astio, ma non lo considera come fratello. Non vede in lui chi lo mantiene, né si sente minimamente corresponsabile di ciò che accade fuori della provincia. Scopo della vita gli sembra il culto delle scienze per se stesso, o magari il piacere di passeggiare nel giardino d'una cultura che volentieri si atteggia universale, senza esserlo del tutto. Insomma, questa cultura Castalia, cultura alta e nobile, certamente, alla quale sono profondamente grato, non è, nella maggior parte di coloro che la possiedono e rappresentano, un organo, uno strumento. Non è attiva e rivolta coscientemente a mete più grandi, ma tende piuttosto al godimento di sé, all'incensamento, alla formazione di specialità spirituali. Il nostro compito più alto e più sacro consiste nel conservare al paese e al mondo il fondamento spirituale che ha dato buona prova anche come elemento morale di estrema efficacia, il senso della verità sul quale si fonda anche il diritto. Queste cose le sa benissimo ognuno di noi, confratelli, ma a un esame di coscienza dovremmo, per la maggior parte, confessare che il bene del mondo, la conservazione dell'onestà e purità spirituale, anche fuori della nostra provincia così bella e pulita, non è per noi la cosa più importante, anzi non conta affatto, e che ben volentieri lasciamo a quei valorosi insegnanti là fuori il compito di espiare, con la loro opera appassionata, la nostra colpa verso il mondo e di giustificare in qualche maniera a noi, giocatori di perle, astronomi, musicisti e matematici, il godimento dei nostri privilegi. Se volessi tentare di esporre questi pericoli a un castalio di media levatura, dovrei farlo anzitutto con esempi presi dalla storia e incontrerei una certa resistenza passiva, un'ignoranza e freddezza che si potrebbero definire quasi puerili. Tra noi castali l'interessamento alla storia universale è estremamente fiacco, anzi ai più manca non solo l'interessamento, ma direi quasi la giustizia verso la storia, il rispetto per essa. E se ora ci poniamo di fronte alla storia universale, soprattutto alla moderna, quasi come gli eremiti e gli asceti del primo cristianesimo stavano di fronte al teatro del mondo, lo dobbiamo alla nostra superbia spirituale. La storia ci sembra un'arena degli istinti e delle mode, delle brame e dell'avarizia, dell'avidità di potere e della smania di uccidere, della potenza, delle distruzioni e delle guerre, dei ministri ambiziosi, dei generali mercenari, delle città bombardate, e dimentichiamo troppo facilmente che questo è soltanto uno dei suoi numerosi aspetti. Soprattutto dimentichiamo che noi stessi siamo un brano di storia, siamo divenuti e condannati a estinguerci quando perdessimo la facoltà di divenire e di trasformarci. Noi stessi siamo storia e abbiamo la nostra parte di responsabilità nella storia universale e nel posto che vi occupiamo. Troppo ci manca la coscienza di questa responsabilità. I nostri predecessori e fondatori iniziarono la loro opera alla fine dell'era guerresca, in mezzo a un mondo distrutto. Siamo soliti spiegare le condizioni del mondo nell'epoca che ebbe inizio all'incirca dalla cosiddetta Prima Guerra Mondiale, mediante la considerazione unilaterale che allora lo spirito non contava niente ed era, per la violenza dei potenti, soltanto un mezzo di lotta secondario, usato occasionalmente, conseguenza, secondo noi, della corruzione appendicistica. La sventura di quel tempo fu di non possedere un solido ordinamento morale da contrapporre all'irrequietezza e al dinamismo derivanti dalla rapidissima moltiplicazione degli uomini. Ciò che ancora rimaneva di quell'ordinamento fu soppiantato dagli slogan di moda, e nel rievocare quelle battaglie ci accade di imbatterci in fatti strani e paurosi. Dappertutto si combatteva, si ammazzava, si distruggeva e sempre, da una parte e dall'altra, nella convinzione di combattere in favore di Dio e contro il demonio. Erano tempi feroci e violenti, tempi caotici e babilonici nei quali popoli e partiti, vecchi e giovani, rossi e bianchi, non si intendevano più. Andò a finire che, dopo sufficienti salassi e un grande immiserimento, sempre più forte si fece sentire il desiderio di rinsavire, di ritrovare un linguaggio comune, un desiderio di ordine, di costumatezza, di misure valide, di un alfabeto e di un abaco che non fossero più dettati dagli interessi dei grandi, né venissero modificati ad ogni piè sospinto. Sorse un bisogno immenso di verità e giustizia, di ragionevolezza, di superamento del caos. A quel vuoto, sul finire di un'epoca violenta e tutta rivolta all'esteriorità, a quell'urgente e implorante desiderio di un nuovo inizio e di un nuovo ordine, dobbiamo la nostra Castalia e la nostra esistenza. La minuscola, coraggiosa schiera, mezzo morta di fame ma ancora inflessibile, dei veri intellettuali, incominciò a rendersi conto delle sue possibilità. Intraprese con disciplina ascetica ed eroica a darsi un ordine e una costituzione, ricominciò dappertutto a lavorare in gruppi esigui e minimi, a sgomberare le frasi fatte e a ricostruire dalle fondamenta una nuova spiritualità, un insegnamento, uno studio, una cultura. L'edificio fu attuato da principi poveri ed eroici, divenne a poco sontuoso, creò in una serie di generazioni l'ordine, l'autorità pedagogica, le scuole dell'élite, gli archivi e le collezioni, le scuole specializzate e i seminari, il gioco delle perle. E in questo edificio, quasi troppo lussuoso, stiamo noi, gli odierni eredi e usufruttuari, e ci sentiamo come ospiti piuttosto ignari e alquanto agiati, e non vogliamo saperne delle innumerevoli vittime umane sopra le quali furono eretti i nostri muri maestri. Non vogliamo ricordare le dolorose esperienze delle quali siamo gli eredi, né la storia universale che ha eretto o sopportato il nostro edificio, che ci asseconda e ci tollera, come farà forse con parecchi altri castali e magistri dopo di noi, ma che un giorno abbatterà e ingoierà la Castalia, come abbatte e ingoia tutto ciò che ha fatto crescere. Ora lascio la storia e affermo che il risultato, l'applicazione a noi e ai nostri giorni, è la seguente. Il nostro sistema ha già sorpassato il culmine di sviluppo e di fortuna che il gioco misterioso degli eventi concede talvolta alle cose belle e desiderabili. Siamo in un periodo di decadenza che può forse trascinarsi ancora a lungo, ma in nessun caso ci potrà toccare alcunché di più alto, di più bello e desiderabile, di quanto abbiamo già avuto. Siamo in declino. Siamo storicamente maturi per scomparire dalla scena. E così avverrà, senza alcun dubbio, se non oggi o domani, certo posdomani. Se anche il nostro paese e la sua politica si manterranno neutrali, se tutto il nostro popolo avrà la costanza unanime di attenersi, come non fa, al passato e di conservarsi fedele agli ideali castali, lo farà invano. Già ora alcuni dei nostri parlamentari dicono molto chiaramente che la Castalia è per la nazione un lusso piuttosto caro. L'onda è già in arrivo e un giorno ci spazzerà via tutti. Forse sarà un bene, una necessità. Per ora, colleghi reverendissimi, secondo la nostra comprensione degli avvenimenti, secondo la misura del nostro risveglio e del nostro coraggio, ci spetta quella limitata libertà di decidere e agire che è concessa agli uomini e fa della storia universale la storia dell'umanità. Se vogliamo, possiamo anche chiudere gli occhi perché il pericolo è ancora lontano. Probabilmente noi magistri di oggi potremo ancora condurre tranquillamente a termine il nostro compito e apprestarci a morire in pace prima che il pericolo ci sovrasti e divenga a tutti evidente. Per me però, e forse non solo per me, questa tranquillità non sarebbe la pace della coscienza. Non vorrei rimanere in carica tranquillo a elaborare giochi di perle, accontentandomi del pensiero che l'avvenire non dovrebbe trovarmi più in vita. Mi sembra invece necessario ricordare che anche noi, gente lontana dalla politica, apparteniamo alla storia e contribuiamo a farla. Perciò, all'inizio del memoriale, ho detto che la mia capacità di magister è ridotta, o almeno turbata, perché non posso impedire che una gran parte dei miei pensieri sia assorbita dal pericolo futuro. Io rifiuto, è vero, alla mia fantasia di giocare con le forme che la sventura potrebbe assumere per noi e per me, ma non posso ignorare il quesito. Che cosa dobbiamo? Che cosa debbo fare per affrontare il pericolo? A questo proposito, mi sia concessa ancora una parola. A noi non spetta regnare e far politica. Noi siamo specialisti nell'indagine, nella misura, nell'analisi. Siamo chiamati a custodire, a vagliare costantemente tutti gli alfabeti, gli abachi e i metodi. Siamo i verificatori dei pesi e delle misure spirituali. Certo, siamo anche molte altre cose. All'occasione possiamo essere innovatori, scopritori, avventurieri, conquistatori e interpreti, ma la nostra prima e più alta funzione, per la quale il popolo ha bisogno di noi e ci mantiene, è la pulizia di tutte le fonti del sapere. Nel commercio, nella politica, il vendere lucciole per lanterne può essere talvolta un merito geniale. Tra noi, invece, non lo è mai. In precedenti agitati periodi, nelle nostre cosiddette grandi epoche, durante guerre e rivoluzioni, si pretendeva che gli intellettuali si inserissero nella politica. Va da sé che una simile pretesa è inammissibile. Quanto maggiore è la cultura di un uomo, quanto più ampi i suoi privilegi, tanto più grandi devono essere, nel momento del bisogno, i suoi sacrifici. Noi speriamo che un giorno queste cose saranno ovvie per tutti i castali. Ma se anche siamo disposti a sacrificare il nostro benessere, la comodità e la vita al popolo in pericolo, non vuol dire che si sia pronti a sacrificare lo spirito stesso, la tradizione e la morale della nostra spiritualità agli interessi del giorno, del popolo o dei generali. Vigliacco che si sottrae alle fatiche, ai sacrifici e ai pericoli che il suo popolo deve affrontare, ma non meno vigliacco e traditore chi vien meno ai principi della vita spirituale per amore di interessi materiali, chi, per esempio, è disposto a lasciare ai potenti la decisione su quanto faccia due per due. Sacrificare il senso della verità, l'onestà intellettuale, l'osservanza delle leggi e dei metodi dello spirito a qualunque altro credo, anche a quello patriottico, è tradimento. Quando nel conflitto di interessi e frasi fatte la verità corre il rischio di essere svalutata, svisata e violentata come l'individuo, come il linguaggio, come le arti, e ogni cosa organica e genialmente coltivata, il nostro unico dovere è quello di reagire e di salvare la verità, cioè l'aspirazione alla verità, che è il nostro credo supremo. Thank you. Lascio a ciascuno di voi, stimati colleghi, di riflettere in che cosa consistano i doveri dell'ordine quando questo e il paese sono in pericolo. Le opinioni saranno diverse, anch'io ho la mia, e nel considerare tutti i problemi che ho sollevati sono giunto a una chiara visione del mio dovere e delle mie aspirazioni. E così vengo a una richiesta personale che rivolgo all'aspettabile autorità e con la quale concludo questo memoriale. Fra tutti i magistri che compongono la nostra autorità, io, in quanto ludi magister, per la carica che ho, sono il più lontano dal mondo esterno. Il gioco delle perle di vetro è un'invenzione nostra, una nostra specialità, il nostro beniamino, il nostro trastullo. È l'ultima e più caratteristica espressione della nostra particolare specie di spiritualità. A un tempo è, nel nostro tesoro, il gioiello più prezioso e più inutile, più amato e più fragile. È la prima cosa che perirà, quando la continuazione della Castalia diventerà problematica. Non solo perché è quanto di più fragile possediamo, ma perché è la parte meno indispensabile della nostra provincia. Quando si tratterà di risparmiare al paese ogni spesa non necessaria, si limiteranno le scuole dell'élite, si ridurranno e infine si aboliranno i fondi per biblioteche e collezioni, ci taglieranno i viveri, non rinnoveranno le forniture di stoffe per vestirci, ma si manterranno tutte le discipline principali della nostra Universitas Literarum, tranne il gioco delle perle. Il gioco delle perle di vetro è la parte più remota e più insidiata del nostro edificio. Ciò dipende forse dal fatto che proprio il Ludi Magister, il quale presiede alla disciplina meno conosciuta, è colui che presagisce per primo i terremoti imminenti, o almeno comunica per primo questi presagi all'autorità. Secondo me, nel caso di sconvolgimenti politici e soprattutto bellici, il gioco delle perle può considerarsi perduto. Decadrà rapidamente, anche se numerosi individui gli resteranno affezionati e non sarà più rimesso in onore. Se il gioco delle perle crollerà, la Castalia e il mondo subiranno una perdita, ma non la sentiranno sul momento, tanto saranno affaccendati nella grande crisi a salvare il salvabile. Si può pensare una Castalia senza gioco delle perle, ma non una Castalia senza rispetto della verità, senza fedeltà allo spirito. Così sono arrivato alla richiesta personale che vorrei rivolgere all'aspettabile autorità. Chiedo che essa mi esoneri dalla carica di Ludi Magister e mi affidi fuori, nel paese, una scuola comune, grande o piccola, e mi permetta di aggregare via via a questa scuola uno stato maggiore di giovani confratelli come insegnanti di mia fiducia, disposti ad aiutarmi fedelmente a far sì che i nostri principi vengano assorbiti dai giovani uomini di mondo. Voglia l'aspettabile autorità esaminare con benevolenza la mia motivata supplica e impartirmi gli ordini del caso. Il maestro del gioco delle perle di vetro. Post scriptum. Mi sia permesso di citare le parole del venerato padre Jacobus, che ho registrato dopo una delle sue indimenticabili lezioni. Possono venire tempi di orrore e di profonda miseria, ma se nella miseria ci sarà una felicità, questa potrà essere soltanto spirituale, rivolta indietro a salvare la cultura di tempi precedenti e avanti, a rappresentare con serenità e diligenza lo spirito in un'epoca che altrimenti cadrebbe in preda alla materia. Spedito il documento, il magister attese la risposta dell'autorità con molta minore impazienza di quella dell'amico Tegularius. Era giunto alla risoluzione di non tenerlo più al corrente dei propri passi. Gli proibì di ritornare sull'argomento solo accennando che sarebbe certo passato molto tempo prima che gli rispondessero.